Ripenso che è passata solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto, da quando ti ho portato nei pensieri di un momento ormai volato via. Raccontami adesso l'amarezza del ricordo che è distante, avverso, incerto, non si placherà. Raccontami adesso l'esperienza più introversa di una immagine ormai persa che non tornerà con te. Ridi piano ad occhi chiusi, ti addormenti con in tasca l'emozione di chi perde un'altra possibilità. Ma qualcosa sta cambiando, sento satelliti nell'aria in un momento che sbiadisce, si allontana lento. Vai via, riprenditi la vita ormai finita e dammi un'altra possibilità. Vai via, svanisci nell'istante in cui deluso di te abuso e cerco la mia identità. Non restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò. Un messaggio immaginario in un deserto solitario, lentamente si allontana e forse non ti rivedrò. Raccontami adesso l'amarezza del ricordo che è distante, avverso, incerto, non si placherà. Raccontami adesso l'esperienza più introversa di una immagine ormai persa che non tornerà con te. Vai via, riprenditi la vita ormai finita e dammi un'altra possibilità. Vai via, svanisci nell'istante in cui deluso di te abuso e cerco la mia identità. Istante in cui ti penso e mi ricordo quando stavi ancora qua.